quel che ho conoscendo, insomma, alcune forme di alcune forme precapitalistiche di reclusione, dico di reclusione non di detenzione, probabilmente bisognerà fare una distinzione qui che forse rende più precisa la domanda, probabilmente. Penso per esempio ai ricoveri per mendicanti, gli accattoni, le case di industria per gli orfani e gli abbandonati, le case per le prostitute e cose di questo genere. Mi pare che si noti anche un obiettivo di difesa della società civile, di difesa fisica della società civile, dal singolo criminale e, dall'altra parte, la difesa della stessa società civile dalla propagazione con l'esempio del fatto criminoso. È un processo proprio di emarginazione fisica, di segregazione, di tenere lontano, di non far vedere per certi versi. Ora io mi chiedo, questo concetto di difesa della società civile, è rimasta nella concezione della pena detentiva, soprattutto in quei paesi come l'Italia, in cui sviluppo capitalistico appare ritardato o comunque in ogni caso costantemente contaminato da permanere di forme culturali, istituzionali di tipo precapitalistico, di tipo feudale. Cioè, tra l'altro è uno degli elementi che si coglie per esempio in un tipo di opinione pubblica, di coscienza, diciamo così, diffusa, popolare, per certi versi, che tenere lontano la gente significa sì che non nuoce, che non crei elementi per cui la gente abbia una certa assuefazione al fatto illecito e in un certo senso la notte addirittura come una possibile soluzione di problemi sociali e altri di risolvere, penso per esempio alla maternità illegittima e al ricovero, alla reclusione quasi, insomma, anche una forma specifica delle madri di legge. Ecco, c'è questo concetto ancora di difesa proprio, non soltanto, come abbiamo visto, di educazione, di eccetera, eccetera. Una grandissima domanda anch'io su questa prima parte, in qualche modo, cioè sulle... il problema dell'inizio della pena detentiva, insomma, permettendo appunto che io non me ne intendo, quindi faccio solo due domande per chiarimenti, insomma, non per dare qualcosa da dire. Molto spesso questa presentazione, diciamo, da parte degli illuministi della loro polemica, mi pare che copra in realtà un problema di continuità rispetto ai secoli precedenti che è più forte di quanto non si pensi, insomma. Cioè, giustamente all'inizio Padovani ha detto la pena detentiva è nata all'inizio dell'età moderna. Questo rappresenta già un problema, insomma. Di fronte a cui si misurano, credo, queste ideologie riformiste del dominio. Cosa vuol dire questo? Cioè che appunto noi abbiamo già elementi di una certa continuità dal secolo XV in poi, di una certa linea di tendenza, insomma. Ora, appunto, è abbastanza interessante e importante, credo, esaminare proprio in questi secoli l'evoluzione della pena detentiva. Io ne so appunto pochissimo. Mi sembra però che per esempio a fiori già nel Cinquecento la differenza tra la pena detentiva di piccolo cabotaggio, non so come dire, insomma, per debiti per esempio, questo è un tema credo molto molto interessante, insomma, su cui chiedo dei lumi se Cioè, perché la pena detentiva, cioè i debiti, rappresenta proprio uno dei pilastri di questa trasformazione. E invece la pena prevista per reati penalmente rilevanti, cioè la galera nel senso tecnico del termine, cioè l'invio ai reni o l'invio nelle colonie d'oltreoceano, cioè ai bagni penali nel senso specifico di colonie penali. Io mi domandavo se già qui non c'è appunto un elemento interessante di evoluzione, cioè quasi una biforcazione, insomma, ecco, tra una detenzione in qualche modo è vista nel riciclaggio della vita civile, ecco, non per nulla, per esempio, tra i compiti principali del confratello del 500 molto spesso c'è l'intervento in favore del carcerato per pagare la pena pecuniaria necessaria per farlo saltare fuori, cioè visto tutto in un giro molto quasi domestico, insomma, a un certo punto, insomma, poi andiamo, vai in galera, ecco, se hai i mezzi, se hai il padrone dei produttori, o c'è una confraternita che paga quello che dovrebbe pagare, salta fuori, in galera nel senso in prigione, ecco. Invece c'è appunto quest'altro aspetto dell'estromissione della società, insomma. La mia domanda è proprio questa, insomma, ecco, se in questa evoluzione è percepibile, ecco, una continuità di atteggiamento che quindi nelle forme del Settecento trova la sua esplicazione ideologica, la sua... Basta per altre cose. Se non fosse potrei intervenire io. Prima che chiedo o faccio delle domande, ecco, più che altro volevo suggerire alcune chiavi di lettura che certamente sono presenti nel tipo di ricostruzione storica che Padovani ha fatto, ma che forse, a mio modesto avviso, necessita di essere maggiormente evidenziata. Ecco, il punto centrale in questo, penso in parte, di venire incontro a quell'esigenza iniziale di trovare un momento di collegamento anche con dei presenti che hanno interessi disciplinari diversi da questo strettamente penitenziaristico o giuridico, e hanno interessi soprattutto sullo storico e economico. Nella parte iniziale della ricostruzione di Padovani, che io condivido fondamentalmente in tutte le sue linee, soprattutto per quanto riguarda il primo momento, cioè quello dell'emergenza di un progetto giuridico borghese settecentesco, in cui il penitenziario e la pena privativa di libertà si insinua, indubbiamente sottendeva a questo tipo di ricostruzione il favore, mi sembrava, implicito che dava Padovani un certo tipo di lettura o ricostruzione storica. In altre parole, così come emerge da questa ricostruzione, o se non inteso male, comunque come emerge dal mio livello interpretativo di questa fenomenologia, è certo che il penitenziario sorge come certamente filiazione dell'istituzione madre, che è la casa di lavoro, questo non c'è dubbio dal punto di vista storico, che quindi ha un'origine cinquecentesca, questo non c'è dubbio, e sorge una lettura, se vogliamo, per usare un lessico tutti comune, quello marxista, certamente come ancillare, come struttura ancillare al momento produttivo. L'esigenza che sottolineava Padovani di cogliere come la pena privativa della libertà fosse da un lato certamente la pena che realizzava la quintessenza delle libertà dei proprietari, cioè le libertà, però dico, non poteva essere disgiunta da quell'esigenza più volte sottolineata come il carcere, come privazione di un quantum di libertà, fosse anche l'occasione temporale e luogo fisico si prestasse come laboratorio o come giardino botanico delle mostruosità umane, ma nello stesso tempo anche il giardino da tentare il grande esperimento, cioè quella della trasformazione. In questo senso qua, ovviamente, il penitenziario nasce nella sua natura di ancillarità alla fabbrica, alla manifattura, alle esigenze del nascente capitalismo. Ecco, questo ovviamente è un tipo di lettura, che ovviamente non è esaustiva come nessun tipo di letture, è ovvio, questo è scontato, ma che tende a sottolineare la possibilità di ricostruire un'economia politica della pena privativa della libertà. Allora, io mi domando, e qui tendo, cercando in pochi minuti, di sunteggiare un a livello molto rapsodico, un procedimento storico e economico, se è vera questa intuizione iniziale, tra l'altro basta riferirsi al libro secondo del Capitale, in cui Marx più volte insiste, vede sia nella casa di lavoro o comunque nel momento postumo alla legislazione sanguinaria, il tentativo di creare strutture ancillari al momento manifatturiero, bene, se questa intuizione accompagna il momento della prima intuizione di un progetto egemonico borghese, questo vale anche per dopo, cioè quando gli interrogativi di Padovani nascono in tema di crisi del carcere, crisi della pena detentiva, tenderei, ovviamente riferendomi a dati culturali che dopo per acquisiti, perché si riferiscono non tanto ad una posizione giuridica, ma più che altro di tipo storico-economico, a un tentativo di ricostruzione di questo tipo. Il momento fondante per cui la pena privativa diventa dominante nel Settecento e nell'Ottocento è indubbiamente dato dal fatto, se possiamo usare una forma estremamente sintetica, che la pena privativa della libertà realizza il massimo del paradosso, nel senso di riuscire a coniugare due esigenze altamente eterogenee. Un'esigenza è duramente legata al momento delle libertà, cioè la libertà nel senso ben chiaro della libertà dei proprietari, e l'altro momento le esigenze della trasformazione degli individui. In questo senso sposa, dicevo in un mio saggio, proprio nature altamente eterogenee. Come si può cogliere l'elemento di questa invenzione che è la struttura ancillare dal momento manifatturiero? Ecco, la grande invenzione la si può leggere, le letture possono essere tante, sulla falsariga della intuizione del momento della scissione tra il momento della produzione e il momento della distribuzione nella società produttrice di mezzi. In altre parole, se accettiamo provvisoriamente come modello euristico che fino a perlomeno alla rivoluzione industriale sia tutto sommato possibile creare un universo della produzione come estrazione del plusvalore, in parte scisso dalla società civile o relativamente scisso dalla società civile, la pena privativa della libertà ha la virtù di poter coniugare questi due momenti fondamentali della società produttrice di mezzi. Il passo riferito da Pasucanis, soltanto quando tutte le forme della ricchezza sociale saranno tradotte nella forma più semplice del lavoro alienato e misurato nel tempo, sarà possibile pensare di punire uno privandolo del tempo salariato, questa concezione è quella che rimanda tutta la concezione retributiva della pena. La concetto retributivo della pena è vera, non è legata alla società produttiva di merci, perché anche nelle vecchie leggi bibliche del taglione il concetto retributivo era presente, ma il concetto retributivo si specifica come privazione di tempo salariato. E le analisi di Coiré, dal tempo del presso poco al tempo della precisione, danno un momento fondamentale del tempo come il tempo delle macchine, come il tempo della produzione. Quindi il momento della democrazia, più volte sottolineato come utopia borghese, è legata proprio al fatto che soltanto in quel momento tutti sono proprietari del proprio tempo come tempo salariato. Quindi diventa ragionevole punire un soggetto privandolo di tempo. Questo concetto rimanda al momento della società civile, al momento in cui Marx dirà di libertà e libertà civili, cioè al momento della distribuzione delle merci. Nel contempo, però, la pena privativa come esecuzione rimanda invece al momento della produzione, rimanda al momento della schiavitù dell'uomo sull'uomo e dell'estrazione del plusvalore, cioè rimanda all'universo dove regnano le discipline, cioè le discipline di fatto. Quindi la pena privativa in un momento è la pena prevista dai codici, come pure la retribuzione, è il momento delle grandi libertà processuali previste dalla riflessione borghese, nel momento della combinazione della condanna, perché tutto l'interesse borghese è tutto fondato sul momento processuale del riconoscimento della colpevolezza. Finito questo momento, che è il momento del contratto, nasce il momento invece delle discipline. Il momento delle discipline è invece il momento dell'esecuzione, cioè del momento in cui il potere gestisce il corpo, usare un linguaggio facoltiano, si può anche non usare questo linguaggio, il corpo del detenuto in uno spazio circoscritto che è penitenziario. Ecco quindi che il momento della rieducazione, il momento della retribuzione, sono due momenti che soltanto una storiografia delle idee, come quella giuridica vecchia, poteva contrapporre come due istanze contrapposte. Il pensiero borghese, al suo fondamento, disse a coniugare un'esigenza altamente eterogenea, proprio perché non è altro che il riflesso della contraddizione superiore tra momento della produzione e momento della distribuzione delle merci. Bene, se questo concetto che vede il momento di coniugazione tra realtà necessità disciplinare e necessità contrattuale o di libertà, se nel momento del sorte del penitenziario, domanda, la crisi del penitenziario non sarà anch'essa dovuta a un disequilibrio tra queste due sfere, cioè le vicende che seguiranno in seguito il penitenziario, tardo 800 e primo 900, mi riferisco in modo particolare dopo la rivoluzione industriale come riferimento storico-economico, non saranno esse stesse quelle che alterano profondamente quel momento di parziale scissione tra l'esigenza della produzione, della schiavitù dell'uomo sull'uomo, sul momento delle libertà, il momento della circolazione delle merci e società civile. Io credo che fondamentalmente la storia del penitenziario segue, come storia economica della pena privativa di libertà, questa scansione di tempo. Ora, se riferimento a un certo tipo di lettura che tende a sottolineare come a cavallo di quest'ultimo secolo le esigenze della produzione tendono a fagocitare il momento della distribuzione delle merci, cioè della società civile, è il momento fondamentale di lettura della crisi del penitenziario. Cioè, se è vero che a cavallo del secolo, in modo particolare intorno alla grande crisi economica, e questo quindi mi riferisco più che altro alla storiografia ben conosciuta che è quella nordamericana, le esigenze del capitale, come mai trasformatosi in capitale monopolistico, tendono sempre più a dilatare al di là dei cancelli della fabbrica e a pervadere come tale tutti quanti i rapporti sociali. Se, in altre parole, il momento delle discipline, così come regnava nel momento della produzione, diventa la regola fondamentale attraverso il quale si disciplina tutto quanto il sociale, ecco, se quindi si altera questo precario equilibrio tra sfere delle libertà e sfere delle necessità, per fare delle necessità della produzione il momento che pervade tutta quanta le dinamiche sociali, quindi se questo è il momento chiave di lettura poi di tutte le scienze sociali, ecco, non perché pensare che anche in questo momento che il penitenziario entra in una crisi che è strutturale e che non è per nulla ideologica. Facciamo un esempio soltanto che, ecco, come riferimento ai sociologi credo che sia molto facile. Non è a caso che negli anni 20-30 nasce in America una criminologia che è criminologia ecologica. Cioè, il criminologo che ha visto essenzialmente nel penitenziario, nel carcere, o se vogliamo nel manicomio giudiziario, o se vogliamo ancora nel commissariato di polizia, i suoi luoghi privilegiati di osservazione della mostruosità criminale, oggi non si interessa più dagli anni 30 in poi a questo universo. Il suo universo è la città. E nasce l'ecologia criminale, la scuola di Chicago, e direi che tutta la sociologia della devianza strutturale funzionalistica, sia bertoniana che personiana, decisamente segue le linee di questo tipo di sviluppo. Cioè, cos'è che diventa fondamentale? Diventa fondamentale la città, ma in che senso? La città come fabbrica. Cioè, se vogliamo, il mito fordiano di educare il gorilla non è soltanto educare i ritmi ormai di questa razionalità della macchina, ma educare dove il gorilla vive. In questo caso il gorilla vive nel quartiere, nel ghetto, nel centro metropolitano. C'è tutta la riflessione delle scienze sociali, in particolare della sociologia criminale, in America è segnata inevitabilmente come sociologia ecologica, come sociologia del quartiere, della città o comunque delle aree in cui vive il proletariato. In altre parole, questo tipo di analisi coglie come momento fondamentale un duplice movimento del capitale, quello che si dice un movimento del capitale all'interno della fabbrica, un movimento del capitale all'esterno della fabbrica. All'interno della fabbrica con privilegiamento del capitale fisso sul capitale variabile. E l'alto privilegiamento del capitale fisso sulla forza lavoro detta che le forme della disciplina operaia non sono più date dalla sorveglianza, dalla logica panottica di un idealismo foucaultiano, ma sono date dalla naturale adattabilità del corpo dell'operaio alla razionalità della macchina. E in questo credo che più di Foucault, Charles Chaplin, in tempi moderni, rappresenti in termini drammaturgici il momento di adattabilità al nuovo tipo di razionalità. Se quindi i nuovi tipi di razionalità sono questi, contemporaneamente i fenomeni di spostamento del capitale, come privilegiamento di capitale fisso sul capitale variabile, all'interno della fabbrica si traducono all'esterno della fabbrica come tentativo, nel sogno proprio di una gestione tecnocratica del sociale, di gestire tutto quanto il sociale sui meccanismi dell'accumulazione capitalistica. È chiaro che la nuova politica del controllo sociale è la politica dei salari, la politica del consenso è ovviamente la politica della determinazione dei prezzi che non è più data dall'incontro della domanda e dell'offerta, ma è data in termini monopolistici dal produttore. Allora, se tutto questo è vero, è chiaro che tutta l'attenzione delle politiche di controllo sociale si sposta in una dinamica che non è più quella che vede nel momento fondamentale di socializzazione secondaria che è il penitenziario, ma in tutti in un privilegiamento negli strumenti di socializzazione primaria. La scuola, l'istruzione, eccetera. Quindi c'è in questo momento una crisi irreversibile del penitenziario. Ed è il momento in cui il penitenziarista o il penologo nella realtà americana si interessa delle misure alternative, cioè rincorre ancora l'individuo sul territorio, lo rincorre ancora dove vive e dove quelle dinamiche sociali tendono a svilupparsi. E tutta quanta di quel modello del welfare, il modello quindi neo-keynesiano, è certamente un modello che tende a privilegiare certe forme di controllo sociale e a svilire certe altre forme di controllo sociale. Su questo è inevitabile. E tutta la riflessione penologica americana non è mai sul carcere, e sulle misure alternative e su tutte le misure sul territorio di controllo sociale. Questa è la prima grande crisi irreversibile del penitenziario, su cui non si muoverà più. Ma la ultima crisi che lo fa però ritrasformare in senso diverso è quello che è legata alla lettura, se vogliamo, di O'Connor della crisi fiscale. Cioè, nel momento poi più recente, dalla metà degli anni 60, in cui si entra in quella che è stata definita crisi fiscale dello Stato, comunque crisi del modello dello sviluppo tipo keynesiano, in realtà soprattutto come quella americana, l'elemento fondamentale che rileva qual è? È che il tentativo di portare gli investimenti, dagli investimenti puramente sociali, quali erano legati al concetto di stato assistenziale, su tipi di investimenti ancora di tipo produttivo, porta ovviamente a un contrasto dello stato assistenziale, di tutto per le misure di controllo alternativo che sono costose dal punto di vista sociale. Ultimi lavori come quelli che escono in America ultimamente dicono che la deistituzionalizzazione non è un rapportato della critica antistituzionale, è portata alla crisi fiscale. Costa troppo tenere la gente in prigione, costa troppo tenere in manicomio. Salvo poi di non avere più sul territorio un capillare strumento e macchina di controllo alternativo. Ormai tutto è lasciato all'assistenza privata e soprattutto nel campo psichiatrico, sono l'industria dei psicofarmaci, quella che supplisce il manicomio. Il penitenziario però non muore neanche in questa ipotesi, salvo però che rinasce un'ipotesi completamente diversa, che a mio parere non è altro che quella del carcere di massima sicurezza. Nasce come tale avendo perso irrimediabilmente la matrice per cui era sorto. Conciliazione tra discipline, necessità disciplinare, momento contrattuale, per mantenere invece una vecchia funzione che ha sempre avuto il sistema punitivo, che è quella della deterrenza. Quindi, oggi noi leggiamo un penitenziario a cui non possiamo attribuire, se non con falsa coscienza o cattiva coscienza, che più volte un vecchio giurista di 50 anni fa diceva che è compagno di un buon giurista, tanto più se penalista, ma oggi non lo si può più avere la impudenza di poter attribuire a questo penitenziario le funzioni che esso non potrà eventualmente più avere. Oggi questo rimane e sopravvive in una funzione puramente residuale rispetto al grande progetto egemonico settecentesco, ottocentesco, che è quello di rimanere come strumento di pura deterrenza. A questo punto qua il suo ruolo di deterrente va poi coniugato politicamente con le singole situazioni, il terrorismo in Italia, è stato il problema dei negri in America, o il problema che in generale nella cultura americana si chiama il federal male, chiunque crea disturbo e chiunque non riesca in nessun modo ad accettarsi ai livelli minimi di convivenza sociale. In questo senso qua le indicazioni che venivano ricostruite nella parte storica, sono andato oltre ovviamente all'Ottocento per riflettere un pochettino anche il discorso che riguardava la parte della contemporaneità, secondo me sono legate ancora, se non in maniera esaustiva, ad una economia politica della pena privativa della libertà che accompagna i modi e le forme in cui si dà il rapporto tra capitale e lavoro, in altre parole. E in questo momento qua è segnata strutturalmente la sua crisi o la sua successo, secondo la logica in cui si legge. Questo tipo di ricostruzione fatta adesso, cioè mi chiarisce molte cose che invece avrei voluto probabilmente chiedere non andare di faccio sociale, quindi questo tipo di ricostruzione mi faccio. Mi rimane però un dubbio che riguarda la ricostruzione della sorgere di questo tipo di privazione questo tipo di pena, cioè la privazione della libertà, non dal punto di vista della ricostruzione critica, come è stato appunto fatto, rimandando ad una lettura strutturale dei problemi, la cosa, ma quanto all'interno dell'ideologia stessa, così come essa si presenta. Cioè, credo che il problema della voglio chiedere appunto se il problema della privazione della libertà come privazione di un valore non sia immediatamente legabile alla creazione della libertà come valore. E quindi al sorgere di una ideologia borghese della libertà che vede a questo punto la pena come privazione di questo valore stesso affermato in quanto tale. Quindi dal punto di vista interno all'ideologia della pena. Questo mi permetterebbe poi probabilmente anche di venire a capo di una cosa che tutte e due in fondo le relazioni hanno messo in evidenza dall'inizio alla fine, cioè a me pare che il dato costante che si è emerso dalle due relazioni è questo, cioè l'ideologia educazionista in un certo senso, sia nella variabile appunto razionalista, sia nella variabile positivista, sia un po' in tutte, anche quella settecentesca andava a sorgere, entra in crisi immediatamente. Cioè, se c'è un dato in tutte e due le relazioni, è quello della crisi, che accompagna dall'inizio alla fine questo tipo di trattazione. Ora, il fatto che sia presente la crisi non può essere semplicemente addotto alla critica di questa ideologia. Credo che venga proprio dall'interno, sin dall'origine e sin dagli attori stessi di questa ideologia, il concetto di crisi, tanto è vero che poi... Ecco, e quindi c'è una specie di esame fenomenologico del rapporto esistente tra situazioni nella società e quindi porre l'accento su una ideologia o un'altra, a secondo dei momenti. Cioè, la ricostruzione che faceva prima della situazione attuale mi pare che proprio come segno evidente questo. Ma allora a questo punto mi pare che la spiegazione positivista sia, cioè di difesa in fondo di una libertà che era intesa ideologicamente come libertà universale, ma che poi si concretizzava nella accettazione di quel tipo di libertà e di quel tipo di ideologia che stava dietro la libertà, sia tutto sommato alla fin fine l'ideologia che noi dobbiamo accettare, cioè la privazione della libertà come privazione della libertà di individui che non accettano quel modo di estrinsecarsi della libertà, che è quello appunto tipicamente borghese. Cioè, quindi un problema alla fin fine di devianza e di controllo della devianza. E quindi rilascio appunto al discorso che facevo di prima, che mi pare appunto esaurisca un po' questo problema. Sì, vorrei chiedere una cosa, ma però sempre con la stessa premessa che ho fatto prima, cioè che non diviso. E poi c'è da vedere poi ovviamente ha arricchito insomma da questo punto di vista, ma anche per certi aspetti ha decisamente semplificato un certo processo di. Anche perché io ho sempre una certa perplessità insomma a riconoscere che il capitalismo si trova a se stesso nel 500 alla fine del 900, per cui questo capitalismo che giustifica l'origine della pena detentiva, obbligatoria della libertà nel 500, che riproduce in fondo la stessa logica dei supercarceri adesso, i supercarceri mi lasciano proprio perplesso, ma non perché non ci credo, ma perché effettivamente così nel tempo cambia tanto. Io la cosa che mi ha colpito di più, insomma, da tutte e due le relazioni, che effettivamente erano molto ben congegnate fra loro, insomma, è andato proprio qua uno spessore grosso alla materia. Cosa mi ha colpito di più per i miei motivi personali di interesse, insomma, di ricerca, direi che lo potrei definire in questo modo, no? La pena privativa della libertà, ovvero sia detentiva, come forma storicamente determinata della pena, cioè c'è un periodo storico, c'è una modalità storica che evidenzia come fattispecie privilegiata, particolarmente efficace evidentemente, di pena, quella privativa della libertà, ovvero sì, detentiva. Perché a questo punto, mi chiedo io, questo problema si collega immediatamente con la banalissima osservazione, che però è quella su cui io normalmente mi baso, di considerare anche lo Stato come una forma storicamente determinata di organizzazione del potere, cioè come quella forma di organizzazione del potere che è propria di quella anch'essa di una precisa modalità storica. E il caso vuole che, da quel che ho capito io, effettivamente ci sia un certo tipo di analogia, non credo solo cronologica, anche forse sostantiva, tra appunto queste due forme storicamente determinate, rispettivamente di organizzazione del potere da una parte e di applicazione della pena, no? Di esercizio della penalità dall'altra. Mi chiedo perché, dando per scontato che lo Stato è quella cosa che sappiamo che cos'è, che poi in realtà non è vero, perché adesso corrisponde quella forma storicamente determinata di pena che è la forma che è la pena detentiva, no? Questo è un po' il problema che mi interessa, insomma. Anche perché questo evidentemente porta immediatamente, venendo all'oggi, come alternativa, cioè se per ipotesi noi volessimo coltivare l'idea che questo Stato come forma totalitaria è in crisi, allora ecco che in qualche modo, se non automaticamente, ma insomma eccetera, anche la pena detentiva entrerebbe in crisi, cosa che d'altra parte entrambi gli attori hanno detto e hanno anche in qualche modo dimostrato con riferimenti precisi, no? Allora l'alternativa qual è? Ma se l'alternativa c'è, e in fondo loro qualche alternativa l'hanno anche indicata, forse da quell'alternativa lì si può anche arrivare, no? Per a rovescio, no? A intuire una qualche possibile alternativa al fatto stesso, come forma storicamente determinata di zona di potere. Allora, io qui praticamente avrei finito, ma però volevo specificare ulteriormente in questo senso, che a me pareva che, cioè in che cosa sta la qualità, insomma, la caratteristica proprio ultima della pena detentiva come pena storicamente, come forma storicamente determinata di pena, no? Dove sta? A me pare che stia nel fatto, per vedere meglio rispetto al prima, insomma, anche, no? Ecco, rispetto al primo, che forme penalistiche vigevano prima? Non so, anche Prodi ha rimandato la galera, per esempio, ecco. Addirittura l'invio oltremare, oppure ancora prima il bando, no? Ancora prima l'ostracismo, cioè erano tutte forme di difesa, se vogliamo, sociale, che mandavano via dal contesto sociale in cui cioè tu venivi estromesso, ecco, però venivi estromesso, che implicava un concetto di società organizzata, no? Non esclusiva, non totale. Non totale, cioè un concetto di società organizzata che prevedeva al di fuori di sé altro, le colonie, la galera, perché ti pare, il mare, un'altra qualsiasi comunità, il bando, però prevedeva questo. La pena detentiva è all'opposto. La pena detentiva non esclude più, non manda più fuori, sospende. Cioè la pena detentiva è una specie di, come dire, come scavare una nicchia, un posto insomma neutro, un posto sterilizzato, all'interno però della comunità, no? Il penitenziario, come diceva stamattina Padovani, sempre in modo giusto, corretto, insomma comunque attraente, il penitenziario è un microcosmo, no? Di questa stessa società, è una specie di purificazione di questa società, tutta bianca, io mi vedevo ste nicchie, ste cellule, tutte bianche, tutte cose. Ecco, e questo qui è il discorso, cioè non c'è più l'espulsione, c'è l'introiezione quasi del malato, del deviante, di quello che ha commesso il delitto all'interno della società, in una specie di intimo, no? Cuore della società dove ci si può purificare. Allora, e questo allora, se è vero questo è interessante perché rafforzerebbe una mia, cioè una mia diffusa, che è quella che attribuisce appunto allo Stato come forma storicamente determinata di detenzione del potere questo carattere di totalità, di coincidenza interna molto stretta, cioè di esclusività di qualsiasi alternativa di potere, capite? Questo voglio dire, cioè se è vero che lo Stato moderno nasce e si organizza, si incentra sopra il momento della decisione, cioè sopra il momento della centralità del potere, sopra il momento dell'esclusività del potere e così via, allora io capisco bene che questa dimensione totalizzante, no, di questa forma di organizzazione del potere non possa che produrre una pena che appunto non esclude ma introietta. Quindi da questo punto di vista mi riferisco all'amico Gigi che sta lavorando su Foucault, l'analisi di Foucault è completamente negativa e deficitaria in quanto invece non rifiuta di andare a cercare un potere così chiuso, così compatto, ma presume invece di andare a cercare un potere diluito, presente dovunque, ma proprio perché è presente dovunque, non incentrato in un luogo centrale, inesistente e non comunque colpibile. Questa cosa qui, a mio avviso, è perché poi, cioè, queste cose che dico, secondo me, meno come le intendo io, che non riesco poi neanche a spiegarle bene, e vanno molto d'accordo in realtà con la ricostruzione di tipo molto materialista, storico materialista che facevi tu, no? Ma a mio avviso questo qui, al limite, questo tipo di impostazione dovrebbe consentire di recuperare anche la fase attuale, no? Se vogliamo, di caduta, insomma, di crisi di questo modo di organizzazione del potere e di attuazione della pena. Perché in fondo, qui lo schematizzo in modo molto eccessivo, so? Il carcere speciale è questo di nuovo. Cioè, il carcere speciale non solo è, cioè, non solo tradisce il, no, l'origine appunto illuministica, no, del penitenziario come luogo di, cioè, lo, come duplice, no, con la duplice modalità che ci aveva, cioè di ancillarità al processo e al progetto capitalistico da una parte e anche però di recupero, no, di, cioè, non solo tradisce questo in modo palese ed evidente, tant'è vero che come si scherzava, si cenniava prima, pare che siano favolosi questi luoghi, qualche mio amico suggeriva di spandire borse di studio per andare, perché pare che sia molto comodo da studiare. Cioè, in realtà pare che sia il culto della privatità il carcere speciale, dove il tizio rinchiuso vive in uno stato felice di atarassia, di studia, di fare queste cose di genere. La società non frega più niente di reeducare, lei viene lì sulla rivoluzione, no, lei è noto che a Trani legge normalmente tutti i libri che vuole su più trementi e scrive i libri trementi. Questo era assurdo, adesso io sto scherzando su Negri, che è un mio amico e di cui mi compiaccio per il fatto che è stato prosciolto da una serie di cose, a cui adesso mi permetto di scherzare sopra, ma voglio dire, anche questo è un elemento importante, cioè di non rientro, uno che è dentro per, come si chiamano quei reati tremendi, di banda armata contro lo Stato, di su no, gli fanno scrivere dei libri rivoluzionari, era quella, era la quintessenza del paradosso, insomma, no? Non sento mandare secondo. Ma non solo quello. In realtà il carcere speciale, a mio avviso, è di nuovo l'oltreoceano. Cioè questi schieramenti, a pare che a Pescara ci siano questi dove c'è questo paese che parla, ci sono tutte, non si può arrivare neanche, cioè c'è un chilometro di terra di nessuno, dove nessuno passa, perché non è giustamente perché questo sta parlando. Però questo è l'idea dell'oltreoceano, cioè di nuovo ritorna fuori il carcere lontano. Il bandito, cioè non è più il carcere dentro, non è più San Vittore, da cui infatti si fugge, perché San Vittore è dentro, nel cuore di Milano, è la... e chiudo lì. Comunque io, cerco un po' di fare una specie di domanda, cioè spero di essere chiara, anche se ho dei forti dubbi su questo. Comunque, per tornare un po' indietro dal carcere speciale così e più precisamente in quel periodo di tempo che va dal 700 in poi, no? 700 e poi anche verso appunto l'800. E quello che voglio chiedere si rifà, diciamo, ad un problema più che altro pratico. Cioè, per quanto riguarda il sistema di applicazione della pena detentiva, quello che voglio sapere è proprio questo, se c'era un conflitto di competenze tra le disposizioni dei governi centrali in materia penale e le autorità, del luogo, e se c'erano questi conflitti di competenza, si può pensare che questi venissero in sostanza risolti in vista di un trionfo della pena in sé, no? Cioè di questa appunto pena che trionfa con concetto punitivo, oppure il concetto di pena stessa veniva ad essere sacrificato ad un conflitto appunto. Qual era appunto questo conflitto, se c'era? E io mi cioè, diciamo, queste mie confusioni sono state viene dalle lezioni che sto facendo, no? E appunto per il Trentino in particolare, dove ho, cioè, ho trovato dei conflitti di competenza tra, diciamo, il potere locale, in quel periodo ero affrontato da un magistrato politico autonomico, e diciamo, un'autorità superiore, quale poteva essere il capitano circolare. E in questi conflitti, diciamo, oppure appunto il governo centrale per sé. Niente, io appunto ho visto che in molti casi venivano a, cioè, diciamo, a cadere in un trionfo diciamo, del conflitto stesso. Cioè, chiedo scusa, sto facendo una tripla. E più, diciamo, che il trionfo della pena in sé, c'era un trionfo di un'autorità sull'altra. E cioè, quello che volevo chiedere è appunto questo, se anche per le altre zone, cioè, si può... Fare un esempio specifico, scusami, esemplificare con un caso. Sì, cioè, il caso in particolare è questo, si tratta di un calderaio, che vabbè, vive appunto nella città di Trento da molti anni e cioè fino a un certo periodo, diciamo, si è sostentato con il suo lavoro di calderaio. In che anni? 1836. E a un certo momento cosa succede? Succede che vabbè, insomma, cade in disgrazia per malattia. E dove, insomma, questo calderaio ha una famiglia composta di una moglie e di due figli. Succede che appunto lui, cioè, vabbè, per poter ancora sostentarsi, chiede, diciamo, una sovvenzione alla beneficenza pubblica, cioè un contributo. Diciamo. E niente, questo contributo gli viene concesso, però a questa concessione fa seguito una decisione di espulsione dalla città. La motivazione di questa espulsione in pratica è questa, cioè che appunto in seguito a questo contributo, cioè questo calderaio non ha più il diritto di domiciliare ancora nella città di Trento. Cioè, in sostanza, questa raggiunzione, diciamo, di elemosina pregiudicava una sua successiva presenza in città. Ecco, niente, questo calderaio fa un ricorso al capitanato circolare, se non sbaglio, e appunto il capitanato circolare stabilisce che insomma, questa diciamo, sua questo beneficio che ha ricevuto non pregiudica la sua permanenza in città, mentre il magistrato politico-economico sostiene che il fatto appunto che questo calderaio abbia beneficiato dell'elemosina, cioè in pratica porta, si riesco a farmi capire? Sì. No, ma è interessante perché mi pare sicuramente in questa sera io prima mi pare, cioè lo Stato non esclude, cioè lo Stato ingloba in qualsiasi modo, ecco, quindi preclude. I vecchi ordinamenti territoriali locali, ecco, vedono ancora nell'esclusione, mi pareva di capire quali interessi dello Stato. Ecco, sprimetto questa cosa, che appunto questo calderaio non era nativo di Trento, ma era nativo di Rovereto. Bene, appunto, cioè, il magistrato cosa fa? Stabilisce che debba praticamente lasciare la città perché cioè, diciamo, questo caso potrebbe di nuovo verificarsi con una, cioè, con una sua successiva caduta in disgrazia, e quindi il dare, diciamo, dell'elemosina a questa persona non nativa della città di Trento comporterebbe, diciamo, un togliere possibilità di sussistenza a invece cioè, a tutte le persone cioè, che sono nate in città. Bene, niente, il caso in pratica si risolve così, cioè si risolve che con una disposizione, cioè, con una disposizione del magistrato, questo diciamo, calderaio viene con un passo di tradotta in pratica allontanato dalla città e rispedito nel comune di nascita, nonostante il capitanato cioè, circolare sostenesse che appunto questo non era giusto in sostanza perché ecco appunto, cioè, volevo sapere se, cioè, se questo si verificava già da parte o no. Io però non si trattava di una pena inflitta al calderaio, in definitiva il calderaio veniva allontanato per ragioni diciamo così amministrative, se non ho capito male. Ma il fatto abbiamo risolto, che... mi sembra di capire, di quello che volevo dire prima parlando dell'imprigionamento per debiti anche, no? Che forse è un'altra, cioè è il solidarismo diciamo a livello locale che viene messo in crisi dallo Stato, insomma, dal nuovo Stato, insomma. E quindi c'è questo conflitto interno, insomma, è, no? Cioè, va inteso, ecco, anche questo discorso qui, non lo so fino a che punto e da che punto in poi si possa distinguere con esattezza tra provvedimento amministrativo, provvedimento no, invece penale, eccetera. Il discorso era... Anche questo è un problema di differenza. Sì, siamo d'accordo, però in questo caso, certo, si trattava di una misura tutto sommato amministrativa nei confronti del calderaio. Probabilmente perché l'organizzazione siamo nel 30, dice dall'800, ma lì è stato, ci dovrebbe essere l'Austria che non è funzionato, ma probabilmente questo invece è un aspetto a livello di autonomie, eccetera. Cioè può darsi che ci sia una davvero insomma arretratezza, capisci, di tipo di intervento, cioè, no, arretratezza locale. Qui ancora vive il senatore Tasso di Prevenzione Paolo del 1525 che dice che il povero Tasso deve avere quelli che sono d'origine della città, e allora la città si è fatta carico di chiudere gli ospedali, li obbliga a lavorare, però hanno nella origine cittadina il loro diritto fondamentale a essere incorporati in tutto questo assistenzialismo, solidarismo, non so come chiamarlo. Sopravvissuto fino all'elenco dei poveri. Invece quelli che non sono della città vanno rispediti, cioè. Nell'Old Poor Law inglese che c'è questa distinzione parrocchiale per cui il povero non residente deve andare no. Ancora prima qui siamo ancora prima da Poor Law, siamo nel 500 e dopo qui si diffonde. Ah beh, lei dice che sì, effettivamente se questo tornava veniva messo invece nella casa di lavoro. Allora scattava lì, scattava con il ritorno, una misura di prevenzione. Forse non so se vale la pena, che se no. Posso aggiungere soltanto una piccola cosa velocissima. È noto che la pena capitale è in pieno contrasto con il discorso dell'educazione, della pena detentiva come educazione, come un processo di reinserimento. Parte dei pensatori illuministi in effetti logicamente esclude il discorso della pena capitale. Tuttavia la pena capitale ricompare molto, sempre costantemente nell'ambito di una concezione della pena, ecco, e ricompare soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento. Come si collega con la crisi della pena detentiva o con il discorso positivistico, criminologico della seconda metà dell'Ottocento, il rimborso maggiore della pena capitale come elemento estremo di soluzione. Beh. Dunque, in realtà non si tratta spesso di dare delle risposte, mi pare, perché non si tratta per lo più di quesiti proposti, ma semmai di stimoli o suggerimenti o chiavi di lettura diverse che vengono prospettate. Beh, innanzitutto io devo dire che i limiti di quanto sono venuto dicendo sono limiti assai chiari, nel senso che io ho seguito la vicenda dall'interno di una certa elaborazione ideologica, giuridica. Ho seguito dall'interno sia per ragioni di affinità personale, nel senso che sono gli strumenti che sono abituato ad adoperare, sia perché mi sembrava obiettivamente interessante vedere in quale modo nello sviluppo stesso di una certa ideologia giuridica vengono recepiti, assimilati i motivi di crisi che la realtà manifesta, come vengono prospettati e in quale misura, in definitiva, le contraddizioni si manifestano, vengono o risolte o non risolte, o comunque vengono in definitiva a porsi, ecco, di fronte a colui che maneggia questi strumenti. Quindi, da questo punto di vista, direi che, riferendomi a quanto veniva osservando all'inizio, cioè la persistenza, se non vado errato, della, di forme precapitalistiche in Italia e quale tipo di influenza possono aver esercitato sulla pena detentiva. Ora, qui bisogna fare una distinzione, fare indubbia, tra l'aspetto reale delle istituzioni penitenziarie e il loro aspetto ideologico. Sono due mondi, ovviamente non separati, però che seguono logiche in parte diverse, di cui l'una può presentarsi nella forma del riflesso, della falsa coscienza rispetto all'altra, ma con cammini spesso divaricati. In altri termini, ciò che nelle varie ideologie penitenziarie viene prospettato non è un dato che poi trovi riscontro nella realtà, per niente affatto, anzi il contrario, si tratta di aspetti che non trovano nessun tipo di riscontro nella realtà, sono forme mitologiche, se così volete, o forme comunque di prospettazione teorica che poi lasciano inalterato il discorso sul piano della realtà, la quale segue certi suoi ritmi di sviluppo o certi suoi atteggiamenti concreti, rispetto ai quali, diciamo, la prospettazione ideologica non ha una reale capacità di incidenza. Quindi, in definitiva, si tratta di due chiavi interpretative non diverse, ma collocate su posizioni diverse. Io non ho fatto, né potrei fare, parte già stata brillantemente prospettata, la storia del penitenziario come istituzione reale, cioè nelle sue connessioni con i meccanismi reali della società. Ciò che ho cercato di vedere più semplicemente, molto limitatamente, è la storia di come il penitenziario è stato utilizzato nel quadro di una riforma penale che aveva certi presupposti, voleva avere certi presupposti e che in definitiva si è avvalsa di questa istituzione concreta. Quindi da questo punto di vista direi che anche per quanto riguarda la domanda, il rilievo che faceva il professor Prodi, certamente già prima della riforma settecentesca l'istituzione penitenziaria veniva utilizzata, sia pure marginalmente, per episodi di criminalità minore, per imprigionamento per debiti, ma si trattava di forme nettamente secondarie rispetto al complesso dell'armamentario penale disponibile nel sistema penale dell'antico regime. In sostanza si trattava di forme di internamento in istituzioni dove accanto a piccoli criminali si trovavano soggetti che in realtà non avevano niente di criminale, la prostituta, o comunque non rappresentavano forme di devianza significativa sul piano sociale, orfani, prostitute, in genere vagabondi, persone che creavano pericolo generico per l'assetto sociale, ma rispetto ai quali non c'era la necessità, non era sentita la necessità dell'adozione di uno strumento sanzionatorio di tipo penale che, se veniva avvertito, veniva prospettato in forme ben diverse, pene capitali, pene corporali e così dicendo. Ora, anche la lunga e brillante, il lungo e brillante intervento di Pavarini, dove gli ha sintetizzato tesi che da molto tempo viene sviluppando sagacemente, mi pare che, prescindere da ogni, diciamo, possibilità di accordo, di disaccordo, io confesso non ho assolutamente una competenza specifica in ordine a questo tipo di fenomeni, né vorrei attribuirmela, cioè non sono effettivamente in grado di discutere questo tipo di prospettazione perché sono sprovvisto degli strumenti essenziali per farlo, non posseggo né la cultura economica né la cultura sociologica idonee a mettere in risalto così o a contestare queste affermazioni, che senza dubbio in taluni punti peraltro mi sembrano abbastanza persuasivi. Certo, il carcere nell'età moderna finisce con l'assumere, mi pare, in termini inoppugnabili una funzione residuale. Il carcere della nostra società tende ad assumere sempre più aspetti di mera deterrenza e questa realtà si manifesta addirittura a livello ideologico, con un revirement, con un abbandono programmatico delle ideologie rieducative. L'ideologia della rieducazione entra in crisi proprio perché il carcere stesso non ha più questa funzione nella realtà, serve soltanto come internamento di soggetti altamente pericolosi o ritenuti tali rispetto ai quali si adotta un regime di pura esclusione. Indubbiamente ogni società, e questo mi sembra un'osservazione nella sua banalità, non può tuttavia essere smentita, ogni società ha gli strumenti penali che può avere, storicamente determinati, consentanei ai meccanismi del suo sviluppo economico e sociale. Non è pensabile che una società trasformi questo armamentario penale proprio perché è collegato strettamente a certi meccanismi economici, sociali, di potere, se volete anche. Il problema però è di porsi criticamente anche dal punto di vista dello sviluppo delle ideologie rispetto a questi strumenti. Ecco, non soltanto, l'analisi dei termini reali del problema è un'analisi che è importantissima, va fatta e va condotta, direi ineliminabile, però quando l'abbiamo fatta abbiamo sempre il solito problema: ma che tipo di strumenti e in quale modo dobbiamo utilizzarli? Come dobbiamo regolarci di fronte a un fenomeno che ha una sua consistenza, che pone certi problemi? Che tipo di atteggiamento dobbiamo tenere? Per il penalista moderno, diciamo, esiste questa situazione, se volete, per un certo verso drammatica. Ciascuno di noi, credo anche mio collega, ma più o meno tutti, viviamo in questa condizione difficile. Da un certo punto di vista non possiamo non condividere o non renderci conto di una situazione di crisi che trova connessioni reali inoppugnabili. Dall'altro lato siamo in una condizione per cui non possiamo limitarci a questa analisi critica, dobbiamo anche prospettare o comunque porci il problema di che tipo di soluzioni si dovrebbero portare avanti, perché a questo punto le soluzioni sono due: o uno dice, beh, qui si tratta di fare la rivoluzione e di cambiare la società, perché se è vero che ogni società ha gli strumenti penali consentanei ai suoi meccanismi di potere, cioè se è vero che esiste un rapporto diretto tra gli uni e gli altri, allora direi che a questo punto non ha più nemmeno senso che parliamo di questi strumenti penali, dobbiamo parlare di come si deve cambiare questa società, punto e basta. Tutto il resto, è un discorso interessante se volete sotto il profilo culturale, ma al limite addirittura sterile, fatto di per sé, cioè isolato nella sua individualità. Benissimo, quando abbiamo scoperto queste connessioni, quando abbiamo visto che si tratta di strumenti congeniali ai meccanismi di potere, riflesso di questo meccanismo di potere, che seguono l'altalena di una certa situazione che si riproduce nella realtà, beh, a questo punto che facciamo? Chiudiamo tutto e ci spostiamo su un altro fronte, prendiamo il mitra, che facciamo? Se non compiamo questo tipo di opzione, cioè un'opzione diretta a incidere direttamente in forma esclusiva sulla società, dobbiamo collocarci evidentemente in un versante problematico, che è un versante non comodo, non agevole, ma l'unica alternativa a quella prima che ho prospettato. Perché, ripeto, un'analisi di questo tipo conduce inevitabilmente e necessariamente a, direi, a rendere insignificante sotto il profilo operativo questa analisi. Dopo che abbiamo scoperto questa realtà, dobbiamo soltanto strapparci i residui capelli, se li abbiamo, e armarci e partire, se così si può dire. Naturalmente ricette, soluzioni non ce ne sono, non ce ne sono in termini di panacea da scoprire, da tirar fuori, però nello stesso tempo la riflessione che va compiendosi è una riflessione anche sulla possibilità di incidere su questi meccanismi, di modificare l'andamento di certi flussi, con la consapevolezza di tutti i limiti che questa operazione può comportare, senza atteggiamenti, direi, miracolistici o tesi alla scoperta di cose che da 200 anni si ricercano, ma che da 200 anni restano inafferrabili. Ora, le altre questioni che sono state prospettate, dunque, francamente non mi consentono, credo, una risposta, del resto neanche questa era una risposta, era semplicemente un modo di collocare il mio discorso nel contesto dei vari interventi, più che una risposta. Scorrendo gli appunti che sommariamente ho preso a proposito degli altri interventi, indubbiamente, se l'ideologia rieducativa è in crisi, la privazione della libertà come privazione della libertà di quegli individui che non accettano questo tipo di società resta senza dubbio una funzione ineliminabile. È stato accennato a questo aspetto, che mi pare ricalchi il problema della funzione residuale del carcere. Certo che il carcere non possa avere una funzione rieducativa ormai è una cosa sulla quale è difficile non essere convinti, e io per primo ritengo che il carcere non possa avere una funzione rieducativa di nessun tipo. Ora, per quanto riguarda il discorso del professor Schiera, io francamente anche lì non sono in grado se non di recepire questi stimoli o questi suggerimenti circa doppio problema estromissione introiezione. Il carcere è senza dubbio al mio tempo una forma di esclusione all'interno della società, mantenendo però l'individuo inserito in qualche modo in questo tipo di contesto. Ora, l'ultimo discorso cui accennava lei, mi pare quello relativo alla pena capitale, senza dubbio la pena capitale in linea di principio è contraria all'ideologia illuministica, all'ideologia rieducativa, ma non in termini radicali. Nel pensiero illuministico ci sono vari filoni che accentuano, privilegiano un aspetto rispetto all'altro. Io ho fatto un tipo di sintesi necessariamente parziale, nella quale cercavo di cogliere taluni dei filoni che mi sembravano più significativi anche per lo sviluppo successivo, però non si può dimenticare che in quella stessa temperie culturale vi erano in realtà anche sostenitori piuttosto decisi della pena capitale, soprattutto se si privilegiava il momento cosiddetto dell'intimidazione, della prevenzione generale, rispetto alla quale la pena capitale poteva svolgere un ruolo evidentemente molto significativo. il fatto che nella seconda metà dell'Ottocento la pena di morte abbia subito una certa recrudescenza, beh, corrisponde a un andamento ciclico, direi, di questo tipo di sanzioni. Anche nell'anziano regime ci furono periodi in cui la pena di morte ebbe fasi di grande utilizzazione, periodi invece in cui subì momenti di maggiore stanca in connessione con andamenti della criminalità o percezioni dell'andamento della criminalità nella società, che direi si spiegano con l'eterna illusione che la pena di morte sia un mezzo risolutivo, che alla fine la sua capacità eliminativa nei confronti di certi soggetti possa consentire di estirpare un fenomeno che si suppone in fondo non riproducibile più, che si identifica in certi soggetti, nell'illusione che questi soggetti, una volta eliminati, non abbiano eredi dietro di sé, mentre ovviamente se un certo tipo di criminalità nasce in un certo contesto, non è che la pena di morte possa risolvere il problema che si pone. E anche attualmente, del resto, mi pare, la polemica sulla pena di morte continua a muoversi su questi presupposti. C'è un filone culturale che addirittura, se così si può dire, che addirittura ha calcolato il numero delle esecuzioni di pena di morte che si dovrebbero effettuare in un anno affinché la pena di morte potesse essere efficace sia come deterrente sia come misura di tipo eliminativo, e la si è criticata per la scarsa utilizzazione che se ne fa. È uno strumento, si è detto, che se deve essere adoperato, deve essere adoperato con criteri proprio di amputazione sociale. Siamo arrivati a questa forma di, diciamo così, di cinismo penale, l'efficacia calcolata o presunta tale, calcolata in termini di quantità dell'esecuzione o delle esecuzioni che nel corso di un certo periodo di tempo devono essere effettuate. Però indubbiamente si tratta di una pena che non reagisce rispetto all'ideologia educativa nei cui confronti è la negazione radicale. Io, così, su un terreno che non è il mio abituale, il mio consueto, vorrei riprendere lo spunto che ha lanciato il professor Schiera, perché mi sembra farne oggetto di una riflessione mia che mi è sembrato illuminante. A me sembra che il problema delle sanzioni, della sanzione penale, dell'intervento penale, postuli prima di tutto un accordo sui fini. Dobbiamo essere d'accordo sul fine, cioè quello di opporsi alla criminalità, se no, dico, il discorso prende altre svolte, altre pieghe, si è aperto a tutto. Una volta che siamo d'accordo su questo punto, il problema diventa un problema di scelta dei mezzi per realizzare questo fine. La scelta di questi mezzi è influenzata da una serie di criteri. Un primo tipo di criterio è di ordine puramente, direi cinicamente razionale, cioè il mezzo più adeguato, obiettivamente, razionalmente più adeguato, maggiormente adeguato a ottenere quel fine. È un discorso di tipo razionalistico, scientifico, nella misura in cui si può scientificizzare. Altri criteri che possono incidere sulla scelta di questi mezzi sono invece non di carattere prettamente razionalistico, ma sono criteri storicamente collocati. Primo, un criterio di valore, valori o ideologici, chiamiamoli come vogliamo, idee perennemente ricorrenti, la retribuzione, la prevenzione generale, la prevenzione speciale, sono impostazioni di ideologiche o valutative. Infine, e questo direi che è l'ultimo tipo di criterio, non è nemmeno tale, è ovvio, scontato, è il condizionamento storico che effettua la struttura sociale, una certa struttura sociale, nel momento in cui si sceglie, si costruisce la tipologia della sanzione, non c'è dubbio. Direi che questo è un dato indiscutibile. Ogni società, per la sua struttura sociale, che non so come si possa analizzare, come si possa configurare, perché io non ho gli strumenti sufficienti, ma è chiaro che la struttura sociale di ogni società, in ogni momento storico, in una data società, si riflette sulla tipologia sanzionatoria che viene di volta in volta adottata. Detto questo, io riprendo appunto, riflettevo un momento sullo spunto del professor Schiera. A me è sembrato estremamente interessante. Io pensavo questo mentre sentivo anche l'intervento articolatissimo di Pavarini. Al centro della nostra discussione è la pena detentiva, la pena carceraria, la detenzione. Ora, l'idea di una detenzione obiettivamente rieducativa, mi è parso di capire così da quello che diceva Padovani, l'idea di una detenzione che nasce obiettivamente rieducativa perché riflette una società ordinata, laboriosa e pia, o l'idea di una pena risocializzativa, con efficacia risocializzante, intesa in termini non più illuministici ma positivistici, un'idea di questo tipo postula, a me sembra, dal punto di vista proprio razionale, logico, postula necessariamente una adesione ad una struttura sociale e ad una ideologia sociopolitica a cui si aderisce, che si fa in qualche modo propria, sia che sia un'adesione reale, sia che sia un'adesione imposta dal potere. Ecco che allora mi sembrava un'illuminante osservazione del professor Schiera. Quando la pena carceraria come qualcosa, non come l'esclusione, ma come l'assorbimento in un certo qual modo dell'individuo in questa struttura sociale, che in qualche modo viene accettata o imposta, capisco a questo punto anche le osservazioni di Pavarini quando dice le alternative, se ho capito bene, le misure alternative segnano un'evoluzione, una prosecuzione, mi sembra tutto sommato, in quanto sono misure che, se non sbaglio nel ripetere le tue parole, inseguono il delinquente sul terreno sociale. Capisco, e tutto convincente mi sembra come analisi, dico però sempre in quel presupposto storico di una adesione o di una imposizione a una certa struttura sociale. Quando crolla questo presupposto, ecco che la pena dico con una certa approssimativamente, ecco che la pena, l'idea di questa pena che riabbraccia in qualche modo, crolla. Ecco allora la pena che recupera una funzione prevalentemente deterrente di prevenzione generale, insomma. Ecco la pena che allora tende a respingere o comunque a operare per il perseguimento di quel fine con un altro mezzo, il mezzo appunto della deterrenza. E questo io avevo cercato malamente di mettere in luce quando parlavo stamani di due fasi della storia delle misure alternative. La seconda fase della politica delle misure alternative, caratterizzata non da misure alternative a carattere punitivo, intimidativo, neutralizzatore, misure che neutralizzano, che spingono lontano via il delinquente. Dove concordo un po' meno con Pavarini è sul carcere di massima sicurezza come espressione massima di questa deterrenza. Non so, anch'io non ho le conoscenze sufficienti per esprimere un giudizio motivato, mi esprimo un'impressione. A me il carcere di massima sicurezza, sì, lo inserisco, lo vedo in questo quadro, ma il carcere di massima sicurezza nasce da un'esigenza sostanzialmente, storicamente ben delimitata, condizionata. Certo, fa parte del quadro, ma non ne farei la motivazione, un'argomentazione al rafforzamento di una certa chiave di lettura. Basta, direi tutto qui, dico, solo rimanendo però fermo una cosa, mi sembra che se siamo d'accordo sul fine e il dramma dell'angoscia, stamani a tavola circolava la parola angoscia, il dramma, l'angoscia o il problema del penalista è quello di trovare questi strumenti che consentano il modo maggiore possibile di perseguimento di questo fine, con l'intesa, ma direi anche questa universalmente accolta ormai, che si tratti di mezzo, di strumento che riduca al minimo i danni, che il male che lo Stato fa al colpevole. Ma a questo punto, ecco, qui torniamo veramente alle radici del problema, la fonte, la legittimità del diritto di punire dello Stato. Il discorso si chiude. Siamo d'accordo o no sul fine iniziale? Legittimità, non di legalità, legittimità. Beh, chi questo riproduce al limite un discorso di privato, cioè la pena, come se ne è parlato oggi, è emersa come una fattispecie di tipo pubblicistico, evidentemente. Ma la pena è necessariamente una fattispecie di tipo pubblicistico o può essere anche una fattispecie di tipo privatistico? Questo è il discorso. Secondo me è solo la pena di cui abbiamo parlato oggi, questa relativa a questa peculiare vicenda storica occidentale moderna che presenta questo aspetto pubblicistico, no? Che poi non è solo pubblicistico, secondo me la pena moderna, la pena occidentale moderna è uno snodo fondamentale del pubblico privato, cioè è il modo con cui in nome di una socialità, cioè della lesione, come dicevate voi stamattina, no? Lesione socialmente accettabile, percepibile, in nome di questo si puniscono comportamenti privati. Quindi è per eccellenza un luogo centrale del macchinario dello Stato moderno, che è tutto concentrato sul mettere insieme il privato e il pubblico una volta distinti. Ma prima di questa configurazione politica e qui, di questa fasso, di questa Costituzione, cosa c'è? C'era probabilmente un modo di vivere in cui il privato e il pubblico erano distinti, quindi in cui la pena non aveva una, in cui la pena privata, cioè che c'era un continuum tra la pena che il padre esercita, si dice, applica al figlio, tanto lo sterla, no? E la pena oggi, intesa nel senso di oggi, c'è un continuo probabilmente, cioè l'autorità paterna, eccetera, no? Ora dico, questo è il discorso che ritorna al quiz, cioè fino a quando siamo d'accordo che la criminalità va combattuta, su questo che non ci siano problemi. Il problema è di capire qual è criminalità, insomma, no? Qual è delinquenza, cioè che cosa è delinquenza? È la delinquenza rispetto a qualche cosa, mica è in assoluto una roba di delinquenza. È delinquenza rispetto alla forma di organizzazione del potere, rispetto alla Costituzione. La delinquenza si ha rispetto a una Costituzione, a una trapasso accettata. Ciò che viola questa trapasso, che devia rispetto a questa trapasso, è delinquenza. Ma quando tu la trapasso non ce l'hai, o è in fase di di ricostruzione, eccetera, eccetera, a quel punto lì anche la delinquenza è un fenomeno effettivamente sfuggente. E allora a quel punto lì capisco bene che voi avete l'angoscia, no? Perché certamente mica solo voi siete l'angoscia, cioè, anch'io personalmente, perché naturalmente. Ma è un problema di fondo, quello di storicizzare, che è quello appunto per rispondere alla provocazione di Paolo, per storicizzare il fenomeno più quello, insomma. Perché se il codice penale fosse, capisci, la tavola del Sinai, il problema ci sarebbe, quando uno pensa alla donna d'altri viene punito. No, hanno comandamento, non è sbaglio. O decima, tutti e due. No, no. Ma se non è la tavola del Sinai? Ma è perciò appunto che io tutto sommato trovo molto interessante il quadro ideologico prospettato dai riformatori illuministi, perché è vero, in questo quadro ideologico poi si può dare un'interpretazione a sua volta in chiave ideologica, cioè che sveli il senso di questo progetto giuridico borghese, che si dice in fondo sì, si tratta di un certo tipo di prospettazione, però è una prospettazione funzionale a un'ideologia di proprietà, in definitiva. Su questo siamo d'accordo, si può dare questa interpretazione. Però è anche indubbio che, insisto su uno degli elementi, dei temi cui ho accennato stamattina, è anche indubbio che questo modello di sistema penale aspettato dagli illuministi si regge su un certo tipo di utopia egualitaria, cioè presuppone questa famosa società di liberi ed uguali, senza i quali l'intera impalcatura non sta sostanzialmente in piedi. Infatti gli ideologi illuministi sono, direi, costretti per forza di cose, ma è una costrizione che in realtà si salda in loro in un progetto elaborato in forma tutto spontanea, sono costretti a legare la riforma del sistema penale alla riforma della società. Non a caso chi si occupa del diritto penale nel Settecento in genere non sono propriamente dei penalisti, sono dei riformatori in senso lato. In taluni questa, diciamo, esigenza di modificazione della struttura sociale, che può essere consentanea alle linee di un certo sviluppo, siamo perfettamente d'accordo su questo punto, però questo progetto si lega con uno schema ideologico che a mio avviso trascende persino le linee di quello sviluppo. Può essere utilizzato, verrà utilizzato concretamente, tutto l'Ottocento è la storia di questa utilizzazione, un'utilizzazione poi che deve continuamente essere riadattata, rivista e ripensata, proprio per corrispondere al fatto che quel modello sociale non c'è. In realtà il modello sociale per cui effettivamente il sistema penale settecentesco è stato pensato non esiste. Ed è perciò che la storia del diritto penale è in qualche misura anche la storia di un adattamento, la storia di un progressivo tentativo di conciliare strumenti che sono consentanei fino a un certo punto, tanto che esigono processi di riadattamento continuo. L'evoluzione è proprio in vista di questo riadattamento, per rispondere a certi tipi di sperequazione, per rendere sempre funzionale questa ideologia penale rispetto a una società che resiste dal punto di vista delle prospettazioni, diciamo, ideali alla recezione di questo modello. Il principio di soggettività, l'individualizzazione, che si manifesta un po' in tutti i settori, e qui entreremo in un discorso ancora più preciso, non sarebbe il caso più tecnico, non sarebbe il caso di farlo, ma a mio avviso è proprio È un tipo di adattamento che investe ogni settore del diritto penale. È proprio uno sforzo continuo di riadattare, sforzo che ha anch'esso, se vogliamo, una valenza di tipo ideologico. Però il modello originario pensato dai riformatori illuministi è un modello che ha questo presupposto di base, queste società di liberi ed uguali, i quali devono sostanzialmente avere queste caratteristiche per poter entrare in questo contratto penale. Il contratto penale degli illuministi è un contratto penale che ha una consistenza pensata come veramente contrattualistica. Siamo d'accordo che poi nella realtà le parti non sono contrattualmente in grado di stipulare quel famoso contratto su posizioni paritarie. Però il modello pensato è un modello in questa prospettiva. È un modello anche ricorrente, perché spero che la domanda si possa intervenire. Certo. Ponevi tu, era essenzialmente fondato sul fatto della crisi dei modelli consensuali, poi tutto qui. Cioè, è chiaro che il progetto borghese egemonico, certamente si fonda non a caso con l'invenzione del presupposto politico del contratto su un'ipotesi consensuale. e tutti i modelli anche della rieducazione se non possono che fondare sul modello consensuale. È la rottura dei modelli consensuali quando si introducono livelli esplicativi, conflittuali o pluralisti, già o si inventano le regole del gioco, non si accettano più i valori ma si accettano le regole del gioco per risolvere le conflittualità, ma si deve ricordare degli espedienti che ti fanno mancare la forma di legittimazione del potere punitivo. Cioè quindi è ricorrente la crisi. È ricorrente, certamente è ricorrente. Ecco, io dicevo, le alternative che poi concretamente si prospettano a questo modello, le alternative che storicamente possono intravedersi, perché vediamo, noi a questo punto abbiamo un certo tipo di crisi, ma i modelli concretamente alternativi che si possono indovinare, diciamo, nell'evoluzione del sistema e che sono del resto già stati prospettati ideologicamente, sono modelli o fondati su una sorta di controllo totale, modelli di controllo assoluto, totale, si arriva a ipotizzare l'uso tecnologico di strumenti di rilevazione del comportamento attraverso sistemi di elaboratori che consentono di seguire ciascuno in ogni momento della sua vita, in modo che la devianza possa essere bloccata, direi, nel momento stesso in cui essa si manifesta. A questo punto abbiamo proprio un sistema di penitenziario diffuso in forma preventiva, se così si vuol dire. Cioè, il mondo è una grande prigione, dove tutti sono potenzialmente soggetti a questo controllo. Ed è una forma possibile. L'altra forma possibile è invece l'ideologia scientifica, nelle sue forme più autoritarie, se volete, cioè l'esasperazione di certi modelli positivistici, la rilevazione in chiave scientifica preventiva dei sintomi della devianza, la possibilità di compiere diagnosi di anomalia della personalità in forma, in stadi talmente avanzati da consentire forme di intervento che prescindano poi dalla commissione di qualsiasi comportamento lesivo, ma l'adozione di misure, diciamo, di tipo terapeutico, tra virgolette, dove in sostanza la prevenzione esclude la possibilità stessa della devianza attraverso l'uso di strumenti variamente concepibili, tipo farmacologico, internamenti di qualunque natura siano, velati o nascosti dietro la settica osservazione scientifica. Si delega a questo punto a una categoria particolare di operatori che diventano sociali nella realtà, anche se sociali, diciamo, dal punto di vista funzionale, anche se la loro etichetta magari è scientifica, antropologi, biologi, antropologi, quali psichiatri, in genere scienziati volti allo studio della personalità, i quali hanno il compito di fornire le indicazioni su chi ha in sé certe potenzialità e quindi deve essere previamente trattato in questo modo. Questi sono, mi pare, i due modelli realmente alternativi. Ma sono modelli che credo nessuno sarebbe disposto a sottoscrivere. Rispetto a questi, il grossolano quadro, grossolano rispetto alle finezze totalitarie di questi congegni, il grossolano quadro presentato dagli illuministi appare, diciamo, con una carica di valore incomparabile dal mio punto di vista. In fondo, tutto quello che gli illuministi concepiscono come strumento di controllo sociale è, in chiave preventiva, l'uso di una sanzione minacciata, la quale deve avere lo scopo di dirigere il comportamento, su quel famoso presupposto di una società di liberi e di uguali. Quindi uno strumento che sconta in anticipo le possibilità di non funzionare, perché si affida programmaticamente ad una esecuzione spontanea. Può funzionare, può non funzionare, è uno strumento, diciamo, grossolano, che in termini di efficienza è incomparabilmente inferiore rispetto a questi, rispetto a un controllo preventivo di tipo scientifico o addirittura a un controllo in atto attraverso strumenti di rilevazione del comportamento. Ma se in termini di efficienza si presenta così approssimativo, così grossolano, in termini di valore mi sembra incomparabilmente migliore, o comunque rispetto a certi cardini ai quali non so se saremmo disposti a rinunciare, mi sembra uno strumento largamente preferibile. Resta il punto fondamentale, e cioè quello che a mio avviso è uno dei nodi della questione, e cioè che lo strumento, il modello penale pensato dagli illuministi è un modello che a mio avviso, tutto sommato, una struttura sociale a cui corrispondere non l'ha ancora trovata in definitiva. Non l'ha ancora trovata. Questo riguardo qua sarebbe bene fare un'osservazione che brevemente mi cioè in fondo questo tipo di modello illuminista mi piaceva pensare in una sua realizzazione in una certa misura diversa da quella che gli illuministi avevano pensato, però operativamente che si richiama moltissimo e forse rende meglio al tipo di pena che noi siamo abituati a sentire, anche se non a sapere molto bene, nei paesi, per esempio, comunisti di tipo, non so, la Cina, per esempio, no? Dove il concetto di rieducazione viene, mi pare, abbastanza largamente come assonanza sentito in Occidente, piuttosto che il problema della detenzione o della punizione, eccetera. Cioè, si parla largamente di rieducazione, no? Non è che però si scrive controllo totale, consensuale, sì, ma totale, io a questo non conosco assolutamente i sistemi cinesi, però ricordo, questa è una cosa interessante, ricordo un saggio che a me è piaciuto molto di due giornalisti americani, un saggio intitolato Nelle carceri cinesi, strada di due giornalisti americani che all'indomani della rivoluzione vengono incarcerati sotto l'accusa di spionaggio, si trovano in Cina e in effetti svolgevano un'attività di questo tipo, quindi sono indubbiamente colpevoli. La storia del loro internamento penitenziario è appunto la storia della loro rieducazione. Una rieducazione perfettamente riuscita, perché il saggio è una esaltazione, direi proprio convinta, sincera, espressione di un'adesione profonda al sistema che essi hanno sperimentato e subito, e direi anche l'attacco alle strutture che ritrovano in America e che li rigettano perché loro non sono disposti a riconoscere di aver subito il lavaggio del cervello, di aver fatto certe dichiarazioni sotto la spinta di pressioni incoercibili. Loro tornano in America, vedremo poi brevemente, è un aneddoto ma interessante mi pare, un aneddoto vero peraltro. Ritornano in America alla fine della loro detenzione novennale e dicono che tutto sommato si sono trovati benissimo, anzi si sono convinti di tutta una serie di cose cui prima non credevano, hanno modificato la loro personalità e quindi non è vero niente, che c'è stato il lavaggio del cervello, che loro hanno fatto le dichiarazioni che hanno fatto sotto impulsi violenti e così via dicendo. Vengono rifiutati dall'establishment americano, vengono considerati dei traditori in definitiva, che sono passati dall'altra parte della barricata. Ebbene, il corpo del libro è la descrizione, in forma quasi di diario, di questa vicenda rieducativa, che ricorda molto sommariamente una forma di, si potrebbe dire quasi, di trattamento psicoanalitico coatto, se l'espressione può avere un senso. Cioè loro, senza subire alcun tipo di violenza fisica, che viene assolutamente bandita dal sistema nel quale sono inseriti, ricevono però una serie così continua, costante, pressante di sollecitazioni, vengono provocati con una abilità, direi anche, così sottile in questo contesto, attraverso tutto un sistema che ora non sarebbe il caso di esporre analiticamente, di cui del resto i particolari mi sfuggono, che è veramente un capolavoro. Io leggendo questo libro ho detto, ma questi hanno un modello rieducativo, questi cinesi, modello rieducativo tra virgolette, perché Dio ci salvi da questi modelli rieducativi, straordinari, perché rigenera veramente, rigenera al punto che questi vengono fuori inneggiando a Mao, convinti di avere subito, convinti, probabilmente, anzi sicuramente così, avendo subito un procedimento di rigenerazione, di trasformazione interiore. Loro vengono gradualmente portati alla confessione spontanea, sentita, vengono trascinati a riconoscere la loro colpa, e soltanto quando dopo molti tentativi di confessioni strumentali che loro speravano di poter fare, ingannando i carcerieri e per liberarsi così della faccenda, dopo molte confessioni strumentali, naturalmente subito scoperte perché le tecniche erano raffinatissime, alla fine, dopo questi lunghi 9 anni, riescono a pentirsi veramente, sinceramente, e a questo punto c'è la rigenerazione e la condanna a 9 anni, perché la condanna a 9 anni di reclusione avviene soltanto dopo che loro si sono effettivamente pentiti. A questo punto si può computare la pena che era necessaria, perché la pena che era necessaria si computa a posteriori. Quanto ci voleva per rieducarli? 9 anni, allora si condanna a 9 anni e siccome li hai già fatti, ti scaggio. Ebbene, questo tipo di narrazione naturalmente mi ha fatto venire immediatamente in mente, per analogia, quel tragico e spaventoso finale del 1984 di Orwell, e cioè il Winston Smith che alla fine di quelle sue traversie in Oceania, di fronte al ritratto del Grande Fratello, si mette a piangere di commozione dopo una delle ennesime vittorie dell'Oceania contro l'Estasia o l'Eurasia, e in quel momento si accorge di amare il Grande Fratello. Dice, ecco, ora mi accorgo, sentiva di amare questo personaggio, questa sublimazione autoritaria rispetto alla quale, tutta, in antagonismo con la quale tutta la sua vita in fondo si era mossa. Ecco, a questo punto lui, grazie all'intervento dei sistemi rieducativi, in questo caso tutt'altro che indolori, di O'Brien, era riuscito ad amare sinceramente e spontaneamente il Grande Fratello. Ecco, questi sono modelli di rieducazione i quali effettivamente... sperimentati modelli canonistici. Appunto, beh, e del resto appunto, modelli di tipo canonistico, esattamente, sono modelli di tipo canonistico sui quali credo che tutti noi avremmo delle perplessità, direi, piuttosto forti da avanzare. D'altra parte, ho l'impressione che l'andamento reale della società rischi di andare proprio verso questa direzione, sia questo lo sviluppo nel quale si rischia di finire, lo sbocco finale, dopo che ci siamo accaniti così duramente e per tanti versi così giustamente contro il sistema penale dell'illuminismo. Io non so se lo sbocco conclusivo non debba essere, in forza di certi meccanismi reali, proprio questi. Allora, so se a questo punto i vecchi arnesi, così tutto sommato approssimativi rispetto alle raffinatezze di congegni di questo genere, non debbano apparire come prototipi di civiltà. Però, con questo appunto ritorno, io sono un neo-illuminista e quindi a questo punto sarà abbastanza chiaro, come direi nei illuminista sui generis, se volete. Però io sono persuaso, ecco, c'è quella famosa frase di quel famoso brano di Antonio Gramsci, non mi ricordo esattamente in quale quaderno, ma là dove dice, sembra una boutade, un paradosso, ma ha una sua verità, dice: nel regno della libertà certe concezioni che nel regno della necessità, cioè nella società capitalistica, rischiano di aprire solo mistificanti ideologiche, come per esempio la filosofia idealistica, la filosofia di Hegel, potranno invece nella società libera essere considerate come ideologie autentiche, corrispondenti alla realtà, perché in definitiva lo stesso marxismo viene storicizzato, è una ideologia condizionata anch'essa, che in una prospettiva diversa sarà soggetta anch'essa a un deperimento ideologico. Ora, gli accostamenti sono sempre pericolosi, però io ripeto, ho la persuasione che il sistema penale congegnato, pensato dagli illuministi, con tutte le valenze ideologiche che esso concretamente può aver assunto ed ha assunto, ha come prototipo sociale reale nel pensiero un tipo di società che non è mai stato concretamente realizzato, una società molto diversa da quella per la quale è stato in realtà adoperato. Io la psicologia del pensiero non sono un giurista, ma sono un uomo normale così, ma ho l'impressione che la coscia possa sorgere quando ci accostano molto da vicino, il problema della detenzione per il criminale comune, che è un problema, una categoria, con quello politico, insomma. Quindi ho l'impressione che i due problemi bisogna avere un po' distaccati, perché quando tutte le società a tempo dei romani c'è un diritto penale che è fortissimo, chi sbagliava contro lo Stato, ma non con lo scontro la società, veniva condannato severamente, insomma. E anche prima di questo secolo, no? A tempo dei giudizi, credo non ci fosse la sollecitazione o preoccupazione politica che invece noi abbiamo oggi quando parliamo di questo problema. Ora, e anche io racconto col professore che la teoria degli illuministi sia ancora la più accettabile, ma gli illuministi sicuramente non pensavano a quello che sarebbe avvenuto poi nel Novecento, nel XX secolo, con le brigate rosse, con tutte le altre cose di carattere politico, ma che io terrei a parte, insomma. Allora magari ci pensavano anche gli illuministi, ci pensavano in senso, diciamo, anche qui, insomma, è rivelatore di una certa mentalità, mi sembra molto importante proprio oggi ricordarlo. Una delle battaglie collaterali degli illuministi fu contro i crimini di lesa maestà, cioè contro i delitti eminentemente politici. Gli illuministi combattevano queste figure criminose che non corrispondevano ai loro postulati ideologici. In fondo il danno sociale di queste figure non era percepibile al di fuori del danno che si potevano avere concretamente provocato nell'ambito dei rapporti sociali. Un omicidio era stato un omicidio, indipendentemente dal fatto che fosse commesso per sovvertire lo Stato, mentre invece se si trattava di fatti che non avevano questo tipo di collegamento reale, allora non danneggiavano in realtà la società, ma erano manifestazioni di carattere puramente ideologico. Il paradigma degli umisti, il libro del Beccaria, questa preoccupazione politica è in minima parte proprio. Lì si parla proprio dei diritti comuni, normali, insomma, che hanno una gamma molto più vasta e verso cui la società deve anche dimettersi, anche senza ricorrere a quelle pene durissime, corporali o fisiche, che c'erano prima, ma che deve sempre mirare a questa rieducazione del tipo. Ora, sulla rieducazione, io credo che molte volte si faccia un po' del moralismo, si sia fatto del moralismo, cioè la pena deve essere tale che deve permettere all'individuo che capisca il danno che ha commesso nei riguardi della società a riformare se stesso, che altrimenti non si spiega. Per esempio, oggi c'è una istituzione molto che tanti conoscono, che tanto è detenuto comune, non dico detenuto politico, viene premiato con delle licenze di 24 ore, di 3 giorni, un paio di ore può dare in famiglia o meno. Neanche per la posta, le statistiche dicono che proprio quelli che sono usciti 2-3 giorni a carcere come premio sono quelli che per primo delinquono un'ora dopo per questo tipo. Proprio molte di queste persone che hanno ricevuto questa libertà in premio sono quelle che subito dopo. Quindi al posto della bontà che l'istituzione ha usato nei suoi riguardi, risponde con una maggiore frequenza, quindi più una maggiore frequenza. Non deve essere portato come una preoccupazione eccessiva da parte di chi detiene non il potere, ma chi rappresenta la collettività, cioè non lo Stato, ma il popolo, la società civile, insomma. Quindi io comincerei a dividere i due problemi, perché forse il discorso nostro oggi si carica molto della preoccupazione del paradigma politico che noi abbiamo davanti, e io distinguerei le due cose. C'è un delitto comune, un crimine comune, e lì io sono molto d'accordo con la teoria illuminista, che per quanto non si sia poi ragionata esattissima, né poteva essere ragionata, l'ipotesi di una società perfetta, anche se ancora perfetta non è, e quindi è giusto che ci sia sempre questo tentativo di immaginare che c'è una società giusta, uguale a cui noi tendiamo e sulla cui immagine noi dobbiamo anche trattare lo stesso del discorso che è in più, e mi sembra un discorso giustissimo, nel senso che non ci sarà mai, non c'è mai stata una società perfetta, però dobbiamo immaginarla o desiderarla perfetta, quindi il discorso di Luigi va bene. Però io distinguerei completamente invece la pena per quanto riguarda invece la ideologia, che è un'altra cosa, insomma. Non possiamo usare, secondo me, lo stesso metro del delinquente comune o del delinquente ideologico, è ancora un discorso forse tutto tanto da fare. Impone anche delle considerazioni politiche, sociali, sociologiche o meno, ma è una cosa un po' diversa. Noi dobbiamo sforzarci di trovare delle altre risposte a questo problema, ma non mescolarle insieme. A me pare che la commistione sia un po' pericolosa proprio di sovraccaricare il problema della natura stessa, quando nella realtà sono delle cose un po' distinte che vanno parallelamente, ma su piani, su soldi, completamente un po' non convenienti, ma divergenti o parallelosi. Certo, no, così solo segnalare una cosa. Certamente il delitto politico, la criminalità politica, oggi, soprattutto oggi, costituisce un punto di riferimento non trascurabile, anzi è un punto di riferimento che purtroppo influenza un certo filone legislativo. Direi però una cosa, che dietro questa programmata distinzione tra delinquenza comune e delinquenza politica si può annidare un pericolo, un forte pericolo, un pericolo che certo probabilmente gli illuministi, la teoria illuminista, gli illuministi intravedevano e tentavano di arginare. Cioè la creazione di un diritto penale speciale accanto a un diritto penale comune, diritto penale ispirato a una serie di principi completamente diversi o parzialmente diversi, un diritto penale speciale le cui dimensioni, cui limiti poi non riesce sempre difficile proprio dal punto di vista anche tecnico contenere, delimitare. C'è il rischio che la bilancia poi venga fortemente influenzata dalla parte di un diritto penale speciale. Noi assistiamo in questi ultimissimi anni, a una proliferazione legislativa che evidentemente, chiarissimamente, nasce perché ha come suo punto di riferimento un certo tipo di delinquenza, delinquenza politica, il terrorismo essenzialmente. Attraverso questa legislazione il sistema sta soffrendo delle tensioni, non va trascurato questo rischio di legittimare, così di predeterminare una legittimazione di un diritto penale speciale, politico, che poi si riflette fatalmente, quantomeno in parte, sul diritto penale comune, una distinzione che presenta dei pericoli, anche se è indubbio che le due forme di criminalità sono diverse e anche storicamente direi hanno visto un legislatore estremamente attento alle diversità del delitto politico. Forse si può dire che la delinquenza politica ha ricevuto in parte fino a un certo periodo un trattamento, una valutazione di segno, come dicevamo un po' stamani, di segno non positivo, ma comunque una considerazione particolare, certa forma, soprattutto parliamo della delinquenza soggettivamente politica, del delitto soggettivamente politico. Oggi invece la tendenza è opposta, la necessità, come dicevamo stamani, è opposta, è quella di sottrarre il delitto, certe forme di delinquenza politica attuale, a quella considerazione più riguardosa di qualche tempo fa. Sì, insomma, la tendenza è che è logico che... Sì, però istituzionalizzare un diritto penale speciale... è derivato anche da una questione ideologica, è un crimine, non c'è dubbio, quindi bisogna condannarlo con le tali, insomma. Però avevo delle cose stranissime, perché il delinquente comune oggi commette un furto con la rapina o meno e dice subito: non parlo, sono prigioniero politico, non faccio l'ideologia. Perfino il criminale comune oggi cerca di privatizzare sotto l'ombra dell'ideologia politica. Quindi è un problema ancora... Maggior ragione questa. sia giusto. È un problema proprio da discutere questo qui, quindi nel campo storico il problema della detenzione, della pena, che parte appunto da Pedro poi, secondo me è un problema reale, un problema positivo, un problema storicamente accettabile, e che il mondo non deve lasciare la società, in quanto ogni società, qualunque sia la classe, il potere, qualunque siano gli interessi che difende, non c'è dubbio, è un dato di fatto accettabile che gli altri devono rispettare, quindi si difende in quella maniera. C'è da auspicare che nella pena non siano mai persi di vista quei limiti di umanità che permettono al delinquente di ritornare in persona normale, insomma, senza calcare molto dall'esterno su quella vicenda rieducativa, che poi finisce per diventare un feticcio, insomma. Ma io non so, credo che, però bisogna anche tenere presente che è cambiato molto, secondo me, proprio storicamente, il criterio di questo rapporto tra delinquenza comune e delinquenza politica, insomma. Cioè uno dei problemi è proprio questa l'incertezza assoluta, secondo me, che c'è sempre di più nella classificazione. Qui io prendo non tanto il terrorismo, ma prendiamo invece i delitti così, di cui si parlava anche stamattina, insomma, inerenti alla corruzione dell'apparato statale o parastatale, insomma. Cioè l'espansione dell'attività dello Stato ha portato come conseguenza una venir meno delle vie illuministiche, da un certo punto di vista, insomma, di separazione dei settori. Credo, uno dei fenomeni proprio più acuti degli ultimi decenni, che sia proprio questa espansione dello Stato, anche in questo senso. Salto di pari passo, ma per esempio il problema dell'amnistia, come è un tentativo, credo, così ormai quasi frenetico, insomma, di rimediare all'instabilità del sistema quando questo arriva a certi livelli, insomma. Si apre la pentola dell'amnistia, come le pentole a pressione, il vapore sbuca fuori. Cioè, mi pare, che sia abbastanza difficile in questa situazione non vedere che alla base sia della delinquenza, insomma, sia più politicamente caratterizzata che non, insomma, un venir meno appunto delle regole, del consenso alle regole, insomma, quindi l'incertezza del diritto come elemento angoscioso, credo, anche del diritto penale, per tutto, insomma, dicevamo a tavola scherzando, insomma, il riaffiorare delle immunità personali, insomma, tutti i giorni, insomma, cioè sono un'altra manifestazione di questa mancanza di consenso, ormai, o di questo venir meno delle regole illuministiche. Però questo non è per dire che le regole illuministiche non fossero valide, rappresentano una tappa fondamentale. Credo che adesso debbano misurarsi di fronte a questi tipi di incertezze, insomma, che non sono stato molto confuso. Il problema della concentrazione del potere dello Stato mi sembra, credo veramente che si serve da studiare, da riflettere, poi ci sono fuori un sacco di suggestioni, insomma. Qualcuno si pensa come appunto il potere punitivo nell'età medievale o prima età moderna era distribuito, appunto, come diceva Schiera, dallo scappaccione del padre, alla corporazione che ti espelleva capomastro che faceva delle cose che non stavano in piedi, alla chiesa che, diciamo, un monaco sta chiuso in un convento per 10 anni e poi dopo, oppure c'è tutta una serie di interventi, insomma, senza interpretare assolutamente, perché a fronte a questo, certo, l'ideologia comunistica era un avanzamento, però ci troviamo in qualche modo in posizioni abbastanza analoghe. Una riflessione storica veramente utile. Voi dovete partire, penso. Penso sì, che siamo in progetto. Domande flash, allora chiudiamo e ringraziamo veramente tantissimo.